Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ultimo giovedì del mese di gennaio e a chiudere questo mese ci tocca il sottoscritto assieme al mio fedele compagno. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. E quindi buonasera dal sottoscritto, dicevo, da Agostino Spolaore, che anche questo giovedì sera è qui presente per il consueto appuntamento con il live. Questa sera abbiamo un carissimo amico che ci viene a trovare da Prato, si chiama Leandro Ghetti. Ciao Leandro, intanto. Buonasera a tutti. Ma poi ciao. Ti presentiamo meglio. Prima okay. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione in frequenza. Poi ancora i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049 875 6423. Mentre per gli sms, se ci volete mandare, tu sei disponibile. Magari se qualcuno ti fa qualche domanda. Certo, magari sì, così sì. Diamo anche qualche informazione. Perché in più no? Si vogliono togliere qualche curiosità. Vi ricordo gli sms, quindi il 346 23 20 0 33. Se non volete spendere quei soldini degli sms, c'è sempre comunque la pagina di Facebook, sia mia sia di Maurizio, che anche quella di Leandro ovviamente, e poi quella della radio, e cioè Blu Radio Veneto semplicemente, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave. Quindi potete tranquillamente scrivere anche lì, che tanto io bene o male cercherò di vedere insomma i vostri messaggi. Poi ancora il nostro sito www.bluradioveneto.it, e lì ci ascoltate in streaming in questo momento, quindi chi ci sta ascoltando tramite il PC lo sta facendo appunto dal nostro sito, che vi ricordo lì trovate tutte le recensioni inerenti agli eventi che facciamo live in questo studio, e poi anche le recensioni su qualche disco in uscita di vari artisti, e oltre ovviamente alle notizie, i fatti, quelli che possono accadere qui nella nostra regione, cioè il Veneto, ma non solamente, a volte andiamo anche oltre i nostri confini regionali. Credo di aver detto tutto, siccome ho tanta voglia di presentarvi questo simpaticissimo amico, prima di tutto un bravissimo cantante. Io sono legatissimo a lui anche per motivi che poi scopriremo. Un'altra cosa che poi vediamo. Che poi scopriamo. Allora abbiamo Leandro Ghetti in arte Lego. Lego. Con la H. Esatto, perché sono lettere che provengono dal mio nome e dal mio cognome. Quindi ho fatto un collage di lettere e alla fine è venuto fuori Lego. Benvenuto a Blu Radio Veneto comunque. Grazie. E grazie di aver accettato l'invito, Leandro. Grazie a voi. Maurizio. Cantautore al 100%, scrivi, interpreti i tuoi pezzi praticamente. Sì, anche se poi i testi li faccio insieme a un grande autore romano che si chiama Bernacchia Maurizio, e che ho conosciuto al CET. Che era il tuo insegnante praticamente. No, no, lui, non propriamente. No, lui ora fa l'insegnante, mentre all'epoca? Ero io no, perché praticamente aveva una sua scuola, poi dopo insomma tramite Mogol è riuscito a entrare. Com'è stata l'esperienza del CET? Il CET è stato bello, a parte il posto magnifico. Meraviglioso. Sì, veramente Mogol sa bene città, sa i posti bene. Sa scegliere bene. Ha sempre scelto bene le cose lui. Sì, poi in campagna, esatto. in mezzo alla natura, a cavalli. Cioè pure, certo, soprattutto quindi, quello, famosa cavalcata. Sì. Ma voi quando siete lì state bene con lui, insomma? Sì. E come? Poi ci ha fatto anche giocare a calcio. Sì. Quindi è stato divertente. E anche un amico, divertente. Insomma, oltre che un insegnante. Insomma. Sì, come atmosfera è molto familiare. Poi chiaramente ci sono le lezioni che uno ci deve mettere tutto se stesso, e poi è fatto bene perché ci sono vari corsi sia da interpreti sia da autori, quindi uno poi riesce anche a mettersi in contatto, magari chi scrive i testi riesce a mettersi in contatto con chi scrive la musica, quindi si crea praticamente un'amicizia. Sì. Ci sono dei percorsi da seguire alla scuola? Ma tu che percorso hai seguito? Allora sei io sei entrato perché hai vinto, hai ho fatto vinto una borsa di studio. Esattamente, per quale motivo? Allora, praticamente ho fatto un concorso a Ciria in provincia di Torino, vinto il primo premio, in giuria c'era Mogol, e ho vinto la borsa di studio per autore. Autore. Quindi praticamente io sono andato lì a studiare come scrivere i testi. Io consiglio a chi volesse entrare al CET di non andarci se non scrivi già. Ah, ho perché, capito. Perché comunque secondo me ci vuole già una certa esperienza, è un corso avanzato. Infatti, ad esempio, ho visto persone che non avevano mai scritto una canzone, che hanno pagato, sono entrati, hanno fatto tutti e tre i mesi, sono usciti, sì, sono migliorati, ma non come chi già aveva un'esperienza. Esatto, questo secondo me è una cosa fondamentale. Poi sì, ti danno un sacco di dritte, ad esempio, che ne so, un testo deve contenere molte immagini piuttosto che, vabbè, le rime, eccetera eccetera, però sono cioè si concentrano sul pop, cioè sulla scrittura pop, pop come popolare, intendi? Sì, quello. Esatto, esatto, esatto, quindi sì, come percorso si va in quella direzione lì. Benissimo. Il chat dà anche le possibilità poi di, superato lo scoglio dell'esame del CET, di avere una visibilità maggiore. No, no, non ha, no, non è, no, per no, questo. Io pensavo di sì, una volta forse. Anch'io, una volta. Infatti la prima cosa che Mogol dice, praticamente il primo giorno siamo tutti insieme, che lì c'è anche un piccolo teatro. Ok, siamo tutti in teatro, Mogol entra e dice: ragazzi, vi dico subito che questa non è, cioè che questa è una scuola. È una scuola. Dopo sono fatti vostri. Ah, perfetto. Ok, il concetto è questo qua. E questa è una cosa di cui anche noi allievi ne abbiamo parlato tanto, sia fra di noi sia con gli insegnanti, perché effettivamente non ci torna tantissimo, perché comunque uno come Mogol avrebbe la possibilità, esatto, di io, dare una mano, certo, forte a chi ha le possibilità. Certo. Poi insomma, chiaramente con tutto il rispetto, se lui ha deciso di prendere questa strada, ci sarà stato un motivo, probabilmente, non lo so, anche per evitare una calca dopo le lezioni, sì, per non essere sommerso, non lo so. Questo è vero, perché era cioè noi al di fuori abbiamo sempre pensato il marchio di Mogol apre tutte le porte, vero Agostino? Non, certo, è così, beh, sì, non sì, è proprio così. No, no. Di solito no, dovrebbe essere così, insomma, quando ci viene qualcosa, io sono stato da Mogol, e invece la stretta di mano e poi e basta. Vabbè, insomma, c'è qualcosa, okay. Però comunque già il fatto di essere lì comunque, sì, credo sia importante, è un'esperienza bella, certo, sì, sì, ti lascia comunque qualcosa, consigliabile, bene. Certo, certo, sì, sì. Senti Leandro, quale favola? Allora, quale favola è il mio primo disco, è anche il mio primo singolo, quale favola? E è un'idea che è nata insieme a Maurizio Bernacchia, che lui praticamente aveva ascoltato i miei brani, aveva detto: guarda, da un punto di vista musicale sono molto belli, però secondo me bisognerebbe rivedere un po' i testi. Che io comunque avevo l'abitudine di scrivere i testi un po' fra le righe, cioè nel senso che non erano proprio diretti e chiari, ma ci doveva essere un'interpretazione dietro. È una cosa che io amo ancora fare, però effettivamente in una visione pop è un po' più dura. E quindi lui ha detto: senti, rivediamoli insieme. Tant'è che quale favola è un esempio di collaborazione. Io ho scritto alcune frasi, lui poi ci ha montato sopra la storia della favola, quindi questa storia d'amore che viene raccontata come se ci si trovasse all'interno di una favola, e così poi piano piano, canzone dopo canzone, ci siamo sentiti e abbiamo detto: bene, abbiamo questo tot di canzoni, facciamo uscire un disco, proviamo a fare anche Aria Sanremo, e così vediamo quello che succede. Il disturbare Biancaneve e i sette nani, come è stato? Lì è stata colpa sua. Ho capito. Poi che l'ascoltiamo, così magari facciamo. Sì, sì, sì. Allora, da questo è il tuo singolo, poi? Sì, quello che si trova anche su YouTube. Sì, esatto, c'è anche il video. Simpatico quel video, come ho visto con le marionette. Sì, sì, sì. È stata un'idea tua quella? Mia. Ah, tutta tua. Sì, sì. Bello, bello, bello. Allora, leggo da quale favola, col punto di domanda finale, ci ascoltiamo la canzone che dà il titolo a questo disco di Leandro Ghetti. Fine, il nostro amore è finito, la principessa non è più la stessa, non dorme sul pisello, vuole fare solo quello. Lei esce con i sette nani ed inventa scuse ridicole. Andiamo anche stasera a fare festa giù in miniera, il principe dispera. Voglio imprigionare Biancaneve, fottermi la strega. Down, down, down, da una favola puoi cadere giù nella realtà. Down, down, down, da un amore si può volare con un calcio nel sedere. down, down, da una fata però è fatale, un errore madornale. Fine, e io non ho un secondo fine, volevo solamente amarti intensamente e vivere per sempre con te felicemente. È tanto che non eravamo in ballo e tu hai venduto anche le scarpette di cristallo. Era ai tuoi piedi e tu che fai? Mi fai le scarpe e tu sei il callo. Down, down, down, da una favola puoi cadere giù nella realtà. Down, down, down, da un amore si può volare con un calcio nel sedere. Down, down, down, da una virgola può cambiare la felicità. Down, down, da una fata però è fatale, un errore madornale. Da baciare, ma non vuoi, sputa il rospo se alle favole tu non ci credi mai. C'è uno specchio che ti dice bella, bella storia quella, ma tu presentami una tua sorella. Down, down, down, da una favola puoi cadere giù nella realtà. Down, down, down, da un amore si può volare con un calcio nel sedere. Down, down, down, da una virgola può cambiare la felicità. Down, down, da una fata però è fatale, un errore madornale. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, da un amore si può volare. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Bene, questo era il singolo di questo disco contenuto nel di questa canzone, scusate, contenuto nel disco di Lego, cioè Quale favola, il singolo, insomma, molto accattivante, molto bello. Grazie. Simpatico, pieno di elettronica comunque. Sì, sì, e come? Ma ti sei sbizzarrito qua proprio, insomma. Sì, sì, anche se poi in tutto il disco ci sono altre situazioni. Sì, sì, ci sono altre influenze. Certo. Infatti proprio su questa cosa qui ho cercato di fare un lavoro abbastanza eterogeneo. Quindi di non fare, che ne so, un disco tutto pop, tutto elettronico, così. Quindi ci sono brani un po' più rock, un po' più elettronici, altri che magari uno ve lo faccio sentire fra poco in live, che è un po' più latino. Quindi poi insomma nel disco c'è proprio un arrangiamento di chitarra flamenca. Insomma, ho cercato di fare una cosa abbastanza diversa. In questo pezzo c'è l'elettronica, sì, ma c'è un violino e una chitarra elettrica, come mai? Perché più che elettronica, forse questo disco si rifà un po' alla disco music. Sì, forse ha più attinenza, nel senso, sembra più elettronica. Sì, elettronica perché è solo magari una base. Subito senti questo synth molto, certo, molto forte, però se ascolti bene il ritornello ci sono forti influenze disco. Esatto, esattamente. Sì. Quindi l'idea di questo ritornello, l'idea della base musicale è tua, cioè i testi sono una base importante, però il contorno musicale l'hai creato, volutamente creato in certa maniera. Sì, sì, sì, anche gli arrangiamenti li ho fatti io stesso. Benissimo. Ma tu come ti definisci, come musicalmente parlando? Io mi definisco pop, però però cerco appunto di fare cose un po' alla Silvestri, nel senso che Silvestri è un grande autore, ma anche un grande musicista, certo, che riesce sempre a fare dischi dove le canzoni non sono mai uguali. Cioè è il pop, però è quel pop che poi viene influenzato con tante da influenze, tanti stili diversi. Con tante influenze, con tante esatto. Lui pesca in tante maniere. Quindi c'è il pezzo un po' più latino, sì, il pezzo un po' più jazz, eccetera, eccetera. Infatti, quando ho ascoltato questo disco qua, sì, sapendo l'altra parte, l'altra faccia tua, no? Okay. Ho detto, ma com'è possibile questa diversità totale? Cioè, da una... Beh, anche Battisti comunque, sì, è sempre stato uno che no, non ha mai fatto un pezzo uguale. Ah, oh, certo. Cioè, certo, ci sono dischi che vengono influenzati, appunto come Anima Latina, da, che abbiamo parlato prima, sudamericana. Sì, quindi... esattamente. Perché in tutti i pezzi, in parecchi dischi di Battisti, correggimi Agostino se non dico esattamente la verità, nelle diverse tracce c'è sempre una traccia in cui lui sperimenta. Sì, è come, assolutamente. Certo. Sperimentando disco dopo disco, la sperimentazione si allarga sempre di più. Mm. Perché probabilmente all'inizio di carriera aveva le pressioni delle case discografiche, della Ricordi, che la Ricordi imponeva una certa, esatto, via. Esatto. Poi quando lui ha preso piede, la Ricordi ha fatto quello che ha voluto, con la sua etichetta, la numero uno. Poi forse, certo, quando ha cominciato non aveva ancora l'esperienza. Esattamente. Che esattamente. Poi aveva ma ha dopo, cominciato quindi a sperimentare subito, dall'inizio, sì, lentamente, già dal progressivamente. Secondo disco. Esattamente. Sì, sì. E come? Stiamo parlando di Battisti perché non l'abbiamo ancora detto, ma è giusto ricordarlo. Leandro è il frontman praticamente della band, della tribute band di Lucio Battisti, esatto, cioè Innocenti Invasioni. Sì, sì, sì. Trovate molto materiale su YouTube e quindi vi farete un'idea di sentire un Lucio Battisti ancora vivo. Ti ringrazio. Veramente, mi colpisce veramente questa tua somiglianza, anche fisica, tutto sommato. Ho vero, letto una tua intervista, ho sentito, adesso non mi ricordo bene, che tu dicevi: i miei capelli sono riccio di natura. Sì, il sì, foulard, sì, vabbè, quello era... Quello lì l'ho comprato. E la voce invece... bancherella. La voce invece è la tua, ma poi magari ci regalerai qualcosa di... Volentieri. Di Lucio. Adesso sì, però parliamo di te. Ma è appesato questo discorso? Perché tu volutamente, giustamente, decidi di allontanarti, perché vuoi fare la tua carriera da solista, al di là della tribute band, tu vuoi fare la tua carriera da solista. Sì, sì, vorrei farla. E quanto pesa questa cappa battistiana? Pesa un bel po', anche perché col fatto che d'estate sono sempre fuori, quindi quello un po' incide anche sul fattore live, che comunque si sa che d'estate suona molto di più che d'inverno, quindi avendo un tuo progetto e non riuscendo a suonare d'estate, sei costretto magari a fare qualche locale d'inverno, ma ora come ora non è sempre facile, è difficile, soprattutto con i locali, e quindi non lo so, ci vorrebbe che insieme alla tribù di Battisti ci fosse anche un'agenzia che ti potesse dare l'occasione. Sì, ma anche non per fare concerti interi, magari fare degli showcase come questa sera in radio, oppure anche aprire altri gruppi, magari un po' più conosciuti di me. E quello potrebbe già essere un punto di partenza. Il fatto della tribute è nata da una forte passione di Battisti, è nata anche dal bisogno di andare in giro a fare concerti, perché tanti ragazzi anche che iniziano a suonare e a comporre musica non hanno gli spazi, e quindi ci sono gruppi che non riescono a fare la musica propria in giro, e gli stessi gruppi magari si propongono come tribute e iniziano a farsi conoscere. Mm. E quindi infatti ci sono anche, ad esempio, io anni fa avevo un locale a Firenze dove facevo musica live, e venne un gruppo che faceva i Beatles, a fine concerto hanno fatto dei brani loro, quindi in quel caso loro hanno sfruttato l'occasione di essere davanti a un pubblico più vasto, certo, perché si sentiva i Beatles e hanno hanno incastrato qualche pezzo, esatto, loro, esatto, quello, quindi... un'idea che potresti fare anche te. Sì, anche se poi ci sono sempre quelli che non sono d'accordo, oppure remano contro, e non è mai possibile farlo. Però insomma, è un po' colpa anche del sistema musicale attuale, comunque. Credo proprio di sì, sì. Le sì, radio sì, attualmente fanno sempre sentire le solite canzoni, esatto, e quindi esatto, i poveri che si fanno un mazzo per sì, per poi arrivare. Anche il fatto che i dischi ormai non si vendono più, certo, e poi c'è internet, quindi quello, non c'è neanche quasi più la figura del produttore che dice: ok, io investo su una band o su un solista, perché sa già che quei soldi non li riprenderà mai, perché i dischi, esatto, non li vende, cioè non si vendono più, e quindi ora come ora è ancora più difficile. Siamo proprio forse in un'era di passaggio, come... Ma quando siamo arrivati totalmente in fondo dobbiamo anche risalire. Sì, cioè secondo me se si continua così poi va a finire che si ascolterà sempre le stesse cose, e i nuovi artisti, nuove band, nuove realtà saranno sempre più insomma sommerse da, certo, dal sistema. Adesso però noi vogliamo sentire Lego. Ok, ok. Allora, io volevo farvi sentire un brano che si chiama Allarme Rosso, che è diciamo la canzone un po' più latin del disco. E, è una canzone che parla di sesso, o comunque che parla di un amore molto focoso, diciamo così. Quando sei pronto dimmelo. Sei pronto? Ok. Chi ti vede non ci crede che sei tu che mi hai cercato. Sei il mio diavolo custode, più bella del peccato. Mi lasci senza fiato, rimango disarmato. Mi hai per caso ipnotizzato. Oh, oh, oh, oh. Nai, na, nai, nai, nai, na. La tua lingua sulle labbra come lava di un vulcano si trasforma in una gabbia che imprigiona il mio destino. Io non sono l'assassino ma solo l'innamorato, arrogo condannato. Allarme rosso, prende fuoco questo cuore, evitarlo io non posso. Allarme rosso, è un incendio l'amore che si accende col sesso. Non ci crede chi mi vede così preso e imbambolato. Siamo lupi o siamo prede, l'importante è il risultato. Un progetto pure il fato, questo è un sogno realizzato. Desiderio arroventato, allarme rosso. Prende fuoco questo cuore, evitarlo io non posso. Allarme rosso, ma che incendio che è l'amore che si accende col sesso. Allarme rosso, prende vita questo cuore quando tu mi stai addosso. Allarme rosso, ma che incendio che è l'amore se non c'è solo il sesso. E questo è un piccolo assaggio. Perché mi pare che sia proprio una chitarra flamenco io nei credits, nei musicisti, esatto, ho detto chitarra flamenco. Sì, esatto. E difatti il flamenco è come? Sud America, cioè. Sì, sì. Ecco, nel disco qui non l'hai fatto perché chiaramente è schematica, chitarra e voce. Però nel tuo disco c'è un finale quasi jazzato, secondo me, leggermente. Sì, come sì, mai, sì, caro Lego? Il finale, perché comunque la musica latina si rifà al jazz. Assolutamente jazz. Si rifà. Quindi, insomma, c'è un forte connubio alle volte tra... Cioè non è che ci sia poi così tanta differenza alle volte. Tra la musica latina e la musica jazz. L'arrangiamento di questo pezzo che l'hai fatto tutto te, sì, con un testo di questo genere, doveva essere così l'arrangiamento? L'hai ideato, sì, proprio comunque così? La musica latina È focosa. Ha in sé una passione. Sì, esattamente. Quindi con un testo così, secondo me, ci stava proprio a pennello. Quindi dal vivo la fai con molta varietà di colori. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Come? Assolutamente sì. Ascoltiamola a 10 secondi dal disco. Ok. La tua lingua sulle labbra come lava di un vulcano si trasforma in una gabbia che imprigiona il mio destino. È completamente diversa. Come? dal vivo chiaramente. Beh, con una chitarra e una voce è un po' più scarna, cioè, chiaramente. Beh, insomma, le canzoni nascono così. Infatti, secondo me anche quello è il bello, no? Cioè, far sentire anche come nasce un'idea che poi dall'idea che si crea tutto un arrangiamento sopra. Certo. Tu hai provato ad andare anche a Sanremo? Ho provato, è andata, com'è l'ambiente? È andata molto bene, perché sono arrivato in finale fra i primi otto, sono arrivato davanti a Morandi e poi Morandi mi ha buttato fuori. Quindi insomma è stata Basta e Morandi, tutti e due. È stata forse più bella del CET da un punto di vista emozionale, certo. Perché poi Morandi persona splendida, veramente persona, cioè è una persona che ti mette veramente a tuo agio. Sì, lo dicono tutti, sì, questi, sì, che l'hanno, sì, conosciuto. Cioè, io sono rimasto veramente ben impressionato. E in più abbiamo anche duettato. Ah, però. Perché praticamente l'audizione con Morandi è stata fatta al Teatro del Casino di Sanremo, cioè dove veniva fatto il primo festival. Sì, ok. Quindi all'inizio. Emozione, sì, esatto. Incredibile. E niente, entri sul palco, Morandi è lì che ti aspetta, si presenta, si fa subito due chiacchiere in modo che te ti rilassi, perché non è proprio facile, insomma, ritrovarselo davanti, e poi ti chiede così all'improvviso di cantare un pezzo a cappella, al che io mi sono trovato abbastanza spiazzato, perché cosa faccio? Ho cominciato L'Aquila di Battisti. Lui, dopo che ho iniziato, dopo due frasi, ha preso il microfono e ha cantato con me. E quindi, cioè, lì proprio è stato veramente bello. Dopo ho fatto quale favola, mi ha chiesto se secondo lui l'avevo fatta bene. Io gli ho risposto sì, anche se poi si può fare sempre meglio. E infatti sono stato buttato fuori. così. No, però comunque dai. Sai cosa mi viene in mente quando ho sentito quale favola? Sì. Solo molto distante, un po' Tricarico secondo me. Dici? Secondo me sì, ma nel senso positivo. A me piace molto Tricarico. Anche a me. Questo, l'ironia che hai giocato, sì. Il modo anche di interpretare quale favola, un po' alla Tricarico, un po' a Tricarico. A me è venuto in mente quello. Dopo chiaramente non è così, però un flash, okay, e poi mi è sparito. Okay, okay. Poi è sparito. Beh, Tricarico è un grande artista. Io poi l'ho visto anche live, voce e pianoforte. Brividi. È bravo, bravo. Sì, sì, veramente. Anche se poi c'ha questa caratteristica. Sì, tutti lo ricordano per la maestra. Stona in una maniera incredibile. Però è alle volte riesce a interpretare le cose così bene che anche la suonatura poi diventa. Fa parte del piacevole del personaggio. Sì, fa parte proprio dell'interpretazione. Perché è stato appiccicato con la maestra. Lui, tutti se lo ricordano quella della maestra. Sì, è un male, un bene. Un bene perché ha venduto tanto, ma un male perché tutti se lo ricordano. Esatto, così. Esatto. Quel motivo. Esatto. Noi invece vogliamo ricordare invece la musica di Leandro Ghetti. Adesso cosa ci fai ascoltare? Sì, allora io vorrei farvi ascoltare un brano che diciamo nel disco ho cercato di fare un arrangiamento un po' gezzato, diciamo così. La canzone si intitola Un perfetto angelo, che non è altro che una dichiarazione d'amore verso una ragazza, però fatta con molta semplicità, con parole che quasi ora non usano più, okay? Quindi un po' una canzone un po' acqua e sapone, diciamo così. Si intitola? Si intitola Un perfetto angelo. Na na na ne ne na ne ne ne ne na ta ta ta ta tutto sola. Sai attraversarmi come l'acqua dei fiumi, dolcemente abbracciarmi come freschi profumi di primavera, di rose che arrossiscono, di cose buone che ti invitano, di olio sul pane, come fra le onde mi posso abbandonare lì nel tuo amore. Così come avessi un vero angelo custode, non ho niente da temere. Come faccio a non avere questa voglia di vederti, questa voglia di volare dentro i tuoi pensieri aperti? Come faccio a non volere ritrovarti qui al mio fianco? Un perfetto angelo bianco a cui mancano le ali, solamente un paio d'ali. na na ne ne na ne ne ne ne na ta ta ta ta tu tu vola. Oramai non penso se tutto questo ha un senso, so soltanto che mi piace quando la tua pace è grande come l'universo, mi sa fare ritrovare il tempo andato perso. Fai venire voglia di rincorrere stelle, di raggiungere la vita mentre sfioro la tua pelle. Accarezzo il desiderio di sentire nel mio letto la presenza del tuo cuore da tenere stretto. Come faccio a non avere questa voglia di vederti, questa voglia di volare dentro i tuoi pensieri aperti? Come faccio a non volere ritrovarti qui al mio fianco? Un perfetto angelo bianco a cui mancano le ali, solamente un paio d'ali. Na na na ne ne na ne ne ne ne na ta ta ta ta tu tu vola. Io devo già portarti dei saluti. Andiamo oltre. Sì, sì, sì. Andiamo oltre l'oceano, andiamo a Chicago. Ci stanno ascoltando anche da Chicago. Ah sì? Sì, sì. Fantastico. Si chiama Lupita, la salutiamo caramente. Certo. Poi c'è un'altra persona che è sempre nell'ambito della musica, scrive testi, dalla Toscana, si chiama Sandra Van Bulles, dovrebbe tra l'altro venire anche qui anche lei, non okay. so se la conosci. Poi no. abbiamo, aspetta che sto cercando perché sono tantissime, c'è Annalisa che ci sta ascoltando anche lei. Già, ciao. Ecco, poi abbiamo Vito, Davide, Laura e Loredana che ci stanno ascoltando. Mamma mia, bene bene, sono molto contento. E poi si parlava di oltreoceano, sì. c'è da salutare un'amica di questa emittente che è tornata in Italia proprio oggi, okay. da Santo Domingo, si chiama Juanita, vive, ciao, Juanita. Vive nel lago di Garda. E così ne... lei. sì. Bel posto. E così la salutiamo caramente, insomma, è anche da parte di Stefania e di Roberto, che sono in ascolto anche loro. Roberto dice, perché non ti mandiamo al Got Talent? Perché che poi in realtà ci siamo stati come cover band. Ah sì? Cioè, insomma, non è che ci siamo stati. Sì. Abbiamo provato, anche se io non ero molto d'accordo di fare questa cosa, però diceva vabbè, insomma, vediamo. C'era l'agenzia con cui praticamente avevamo fatto il contratto. Dice, dai ragazzi, provate. Io ero lì per dire no. Poi ho detto, vabbè, andiamo facciamo a fare un giro. Andiamo a fare un giro. Meno male che non siamo stati presi, che io non ero d'accordo per andare, quindi perfetto. Però io sono abbastanza contrario ai talent. Mm. Sì, poi non lo so, magari mi sbaglio, però... non lo so, non mi sembra il modo giusto, perché sono trasmissioni televisive, non sono trasmissioni musicali, secondo me. Cioè, chi ci giova, tipo in X Factor, sono Lala Ventura, Morgan, Arisa e poi chi c'era? Elio. Ok, perché sicuramente per loro è una visibilità incredibile. Per i ragazzi che vanno... lo è, ma non... un po' meno. Sì, secondo me sì. Mm-hmm. Secondo me sì. Quest'anno ha vinto una qua di Padova. Sì, esattamente. Sì, andrà a Sanremo. Che poi va a Sanremo. Esattamente. No, ma beh, è chiaro che chi vince poi... va a Sanremo. Esatto. E quello è il discorso. Anche se poi non si sa se continuano. No, però non lo so. Non mi ha mai convinto. Come nessuna cosa. Critica da parte mia, però insomma, questa è la realtà della musica italiana. Insomma. Sì, sì, sì. Ecco. Secondo me ci potrebbero essere modi diversi. Certo. Una volta c'erano le canzonissime che non erano un talent, si faceva una gara, cioè Carlo Conti adesso sta facendo una cosa similare nel programma che fa a Rai 1 alla sera del sabato. Cioè, ciò che mi sembra è che la musica non sia in primo piano. E purtroppo sì, è quello. C'è la televisione in primo piano, e non è così. Quella che non mi piace. Lo so, lo so. Ritornando un momento a questo pezzo, sì. Un perfetto angelo, noi nella recensione, noi della redazione, abbiamo scritto praticamente che il pezzo forse uno dei più ricercati dell'album, secondo me. Da un punto di vista musicale? Da un punto di vista musicale, quel sì. piano, a proposito il piano, mi pare aver letto che suoni anche il piano nel disco. Lo suoni qua direttamente in questo pezzo? Sì. Ecco, perfetto, perché caro Agostino e cari ascoltatori, il qui presente cantautore suona un sacco di strumenti, dobbiamo dire. Suono pianoforte, chitarra. E altri aggeggi vari. Sì, insomma. Vabbè, sinte, però comunque sono sempre tastiere. Poi mi è sempre insomma, piaciuto arrangiare, quindi anche... le parti di archi il piano divertito. Ha un peso non da poco in questo pezzo, sicuramente sì ma io l'ho usato proprio per dargli quella sonorità un po' più jazz, un po' jazzato, sì, difatti la fine c'è non proprio è, non è jazz, è sempre pop, però c'è un che, ma il pop e il jazz si possono accompagnare senza problemi. Sì esattamente. Va bene, io direi di far ascoltare ancora un'altra canzone perché poi ti devo fare una domanda. Ok, sono pronto. Cosa ci proponi adesso? Allora, vi farei ascoltare Letteralmente Amore, che è una canzone a tema, nel senso che è una canzone in cui ogni lettera racconta, cioè descrive un concetto, tipo la di amore, la B di bacio, la C di carezza, eccetera, eccetera. Questo è un brano che sul disco suona tango, sulla strofa, mentre si apre sul ritornello in una ballad. Oh, perfetto. Anche qui ho cercato di fare delle cose un po' diverse. Insomma. Ok. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Ti regalerò una all'inizio dell'amore, per 21 mie parole l'alfabeto basterà, poi ti sfioro con la B, il preludio di ogni bacio sulla bocca ricambiato finché ci sorprenderà. È un amore letterale quel che sento io per te, l'ABC sentimentale per cantare e dirti che è letteralmente amore. Questo basta per descrivere ciò che ho scritto nel mio cuore come lettere per te. Ora capita una C per creare una carezza che dal collo con chiarezza sul tuo corpo correrà. Poi ti dedico un addì per donarti le dolcezze, dichiarata debolezza che diverte chi le dà. Ma è un amore letterale quel che sento io per te, l'ABC sentimentale per cantare e dirti che è letteralmente amore. Questo basta per descrivere ciò che ho scritto nel mio cuore come lettere per te, dall'A fino alla Z. Se con l'H sei tu quel che ho, sono un semplice poeta, con la S scriverò. È un amore letterale quel che sento io per te, l'ABC fondamentale per poterti dire che è letteralmente amore. Ma io non lo voglio scrivere perché è scritta nel mio cuore una lettera per te, la T. Benissimo, giustamente tu hai detto una frase iniziale con un tango, poi una ballad praticamente, sì. Proprio, e io l'ho trovata quando abbiamo recensita molto accattivante, può essere un singolo secondo me. Sì, questo. Anche secondo me. È molto, molto, prende immediatamente, perché hai poi, giocato poi ci sono su... i fiati, esatto, sono... hai giocato sulla melodia, sì, che è proprio, proprio è vivace, si sente proprio parte predominante, sì, la melodia è sempre predominante, però in questo caso, se mi, può, mi è consentito, più certo, predominante di un altro. Sì, sì, è vero, sono assolutamente d'accordo. E la, l'idea di costruzione musicale come è nata? Allora, questa, a differenza di come si scrive generalmente, mm, cioè prima si scrive la musica e poi il testo, esattamente, è nato prima il testo e poi, poi la musica, musica. Quindi io quindi mi hai sono fatto... appoggiato, che fra l'altro è anche più difficile, mm, perché comunque uno ha dei paletti, mentre quando uno compone una melodia sei libero, poi arriva l'autore, ti sei... si basa sulla metrica, certo, poi generalmente uno compone un po' in finta sei inglese. Sei appoggiato a Maurizio praticamente. Sì, sì, sì, sì, sì, esatto. Cioè lui aveva... anche, anche se il, proprio la, il, l'idea, sì, di fare la cosa delle, delle lettere non è neanche sua, ma di un mio amico di Grosseto, Daniele, ah, che salutiamo, esatto, che aveva, cioè lui, lui scrive un po' di poesie, insegna insomma a scuola così, e con lui avevo già scritto alcune cose, poi gli ho chiesto se può fare la canzone insieme a Maurizio, gli ho detto va bene, e quindi niente, Maurizio ha, ha ripreso il suo testo e l'ha cambiato, l'ha cambiato leggermente, esatto, e poi ci ha messo la e musica, e poi io ci ho messo la musica. E niente, mi era venuto in mente di fare un tango, forse perché ancora non l'avevo fatto. Ah, okay. E allora ho detto ci mettiamo anche il tango. Ma è bello, sì, perché si interrompe e riprende proprio, sì, dai proprio l'aspetto giusto, dai proprio la sensazione, devi, la gente deve captare immediatamente il refrain, perché il refrain è importante. Esatto, esatto, sì, sì. Come, come nascono le tue canzoni? Allora, mm, le canzoni secondo me nascono da sentimenti forti, cioè comunque quando uno si trova in una situazione o molto bella o molto brutta, quindi sicuramente io ho composto le melodie più belle quando magari, non lo so, anni, anni fa soffrivo un po' per amore piuttosto che per altre cose, quando, quando ero adolescente eccetera eccetera, anche se devo dire che le melodie che scrivo adesso sono un po' più mature, perché chiaramente anche l'età e l'esperienza conta, però ora forse sono più accompagnato dalla, dalla gioia, perché comunque sono in una situazione familiare stabile, mi diverto quando, quando vado a suonare fuori in giro, quindi non c'è più quella sofferenza de, dell'adolescenza, ma c'è una consapevolezza di sé, e questo sicuramente aiuta nella composizione. Però se non provi niente, non hai sentimenti forti dentro di te, è molto difficile che ti venga fuori qualcosa. Ieri sera parlavamo con un musicista che è venuto a suonare, lui ha detto una cosa giusta, un gruppo era l'idea, che è un gruppo di Parma, sì, che per fare i bei pezzi bisogna soffrire, così, sì, è vero, c'è poco da fare, sì, sì, soffrire nel senso letterale anche, del tempo, anche buono, ah, anche, eh? Buono, anche sì, buono, perché comunque anche insomma, davanti a un tramonto si può soffrire. Cioè perché bisogna avere passione, sì, per sì, fare sì, i bei, sì, bei pezzi, per costruire i bei pezzi, e quello parte tutto da là, sì, sì, secondo me. Io te lo devo chiedere, visto questa grande passione che abbiamo in comune per un artista. Lucio Battisti. Lucio Battisti. Okay. Si è capito ormai, insomma. Tra l'altro io ne approfitto per salutare anche un amico, un altro, sì, amico di questa emittente, del sottoscritto, si chiama, c'ha il soprannome, insomma, lo chiamiamo Iena Plinski, ci sta ascoltando dalla provincia di Milano, Carate Brianza. Ciao. E anche lui è un grande fan di Lucio Battisti, addirittura se tu vai nel mio... Tra l'altro è anche in zona Battisti. Esatto, sì. E quindi ieri sera poi tra l'altro mi ha messo anche una canzone, perché abbiamo parlato anche di te, eccetera. Insomma, io lo saluto caramente, ci sta ascoltando proprio in questo momento. Io direi, se tu sei d'accordo, Leandro, sì, e tu fai parte di questa band di tributo di Lucio Battisti, sì, ci fai ascoltare qualcosa di lui? Volentieri, volentieri. Cosa posso fare? Scegli tu. Io farei... quella che piace tanto a Maurizio. Sì, beh, cari ascoltatori, la compagnia. Dobbiamo, sì, dire una cosa per dire ai nostri ascoltatori. Abbiamo già deciso cosa fare, cosa è tutta fare? Una finta. Allora, una finta. Prima contentiamo Maurizio, poi okay, un pochino. Allora, la compagnia, che in realtà non è di Battisti, ma è all'interno di un disco di Battisti e di Mogol Donida. Esattamente. Però comunque l'ha inserita in un suo disco, poi è una canzone così bella che non possiamo non fare, direi. Prego, vai pure. Mi sono alzato, mi sono vestito, e sono uscito solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar. Finché ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo ed allegria. Io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi sia stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo il mio cuore. Felicità. Ho perso ieri e oggi ti ritrovo già. Tristezza va, una canzone il tuo posto prenderà. Io non so te, ma quando sento le canzoni di Battisti mi inevitabilmente parte una commozione. Sono 15 anni, 9 settembre che è scomparso Lucio. Davvero, davvero. Senti, io prendo spunto perché c'è stato un amico che mi fa una domanda da rivolgere a te. Okay. E dice, perché hai scelto Lucio Battisti e non Vasco, che economicamente li chiama di più? Perché a me Vasco non piace. Cioè, o comunque piace, però il vecchio Vasco. Mm. Il primo fino a Liberi, diciamo, secondo me ha fatto delle cose abbastanza belle. Dopo non mi è piaciuto. E poi perché secondo me nel momento che uno sceglie una tribute, e ancora di più rispetto a fare brani tuoi, devi scegliere una cosa che ti appassiona. Beh, certo. Perché devi trasmettere l'arte di una persona famosa che già piace, quindi se fai una roba che non ti senti tua, cioè poi la canzone è come un vestito, no? Cioè te lo devi sentire addosso, quindi non potrebbe riuscire. Poi io non ho la voce di Vasco. Giusto. Senti, parliamo un attimino di questa tributa, insomma, Innocenti, sì, Evasioni. Sì. Voi fate un sacco di concerti in giro. Sì, sì, soprattutto d'estate. D'inverno facciamo qualche teatro, qualche locale, anzi locali quasi niente. D'estate giriamo molto, molto. Mm. Diciamo facciamo almeno una quarantina di date, da giugno a fine settembre. Poi vabbè, c'è stato un calo quest'anno, ne abbiamo fatte mi sembra 32-33. Però è sempre buono. Però sì, è sempre buono, sì, certo. Sì, sicuramente. E poi è bello perché vedo che Battisti piace a tutti. Beh, cioè, scusa. Cioè no, ma ancora oggi, dopo insomma a distanza di 40 anni, vedi bambini che sanno le canzoni a memoria. Certo. E te resti così. Certo. Cioè non è una cosa che non ti aspetteresti mai. Leandro, io voglio strapparti una promessa. Sei registrato, andrai in podcast, quindi ti sentiranno, ti stanno ascoltando in tutto il mondo. Okay. Noi, io e Maurizio, anzi meglio Maurizio, è partito da sua l'idea, anche io mi sono subito appoggiato. Vorremmo fare in omaggio a Lucio Battisti uno special dedicato, sì, alle sue canzoni, ovviamente. Okay. Dal vivo, però in acustico oppure insomma semi acustico. Disponibilissimo. Ecco, ci vieni a trovare, sì, con la tua band. Molto, che sono, molto chi volentieri sono quelli della tua band? Li vogliamo salutare. Sì, allora Niccolò Chimetti alla chitarra, Eugenio Nardelli alla batteria, Luca Silvestri al basso. Non so se riusciremo a esserci tutti e quattro, però sicuramente in due sì, quindi non so, magari facciamo un set acustico oppure in tre con le percussioni, potrebbe essere un'idea, vediamo. Se venite tutti ci fate piacere. Magari, magari. Anche proverò. Perché sarà una seratona, vero Maurizio? Sì, beh, con Lucio Battisti, perché l'idea mia sì, di Agostino è nata proprio da far sentire alla gente sui pezzi famosi, ma anche i risvolti dei pezzi famosi. Gli aneddoti, come sono stati creati, perché la gente vuole sapere anche che sofferenza c'è, che passione c'è a scrivere un pezzo da parte di Battisti e poi Mogol che ha messo il testo. Sono cose molto interessanti, è una chiave di volta dell'Italia di quel tempo. Certo, certo. Poi magari potremmo far ascoltare anche qualcosa di più particolare. Esattamente. Perché ci sono canzoni che il grande pubblico non conosce e sono di una bellezza devastante. Esattamente, purtroppo anche allo stesso tempo positivamente il pubblico si ferma ai grandi classici, sì, ma dietro ai grandi classici ci sono delle cose molto interessanti e ben fatte. Infatti una ragione che poi io mi ricordo come fosse adesso. Quando decisi di mettere su la band, ero insieme alla mia ragazza, poi era diventata mia moglie. Eravamo che salutiamo. Ciao Daniela. Anche la figlia. Già che esatto, sei. Le figlie. Alle figlie. Alice Aurora, ok. Benissimo, eravamo in macchina di mio padre e c'era una cassetta. Una cassetta. Proprio una cassetta. E io, vabbè, Battisti, ok. Cioè, anch'io conoscevo quelle classiche, però era una raccolta molto particolare perché c'erano delle perle rare e ho detto cavolo, sono bellissimi questi pezzi. Infatti lei mi disse dai, però potresti mettere su una band, insomma la voce ce l'hai, Battisti ti è sempre piaciuto. Dicevi ce l'avevi io però, sì anche se era un po' diversa, avevo il pizzo, avevo i capelli un po' più corti, però poi vabbè mi sono levato il pizzo perché con Battisti non c'entrava niente. E così mi sono appassionato ancora di più e ancora di più di quei brani che non conoscevo. Sì, la chiave di volta dell'operazione che faremo quando sarà è proprio questa. Beh, faremo ascoltare comunque anche le canzoni un po' più conosciute. Sì, beh, certo. Sarà una però, serata lunga. Che sono comunque belle. Sì, certo. Ma nell'ambito del programma è interessante anche scoprire i lati un po' oscuri del magari riusciamo a far ascoltare qualcosa di Panella, magari. Ah, come no, certamente. Non so se sarà facile, ma... Però si può tentare. Ci proveremo. Sì, certamente. Chiudiamo questa parentesi dedicata a Lucio con un medley, ce lo fai? Ok. Quello che vuoi tu, fai suoni quello che vuoi tu, dedicato a Lucio Battisti, poi torneremo a parlare della tua musica. Vi ricordo che lui è il frontman dei Innocenti Evasioni, che è la tribute band di Lucio Battisti. Io prima lo ascoltavo mentre provava, vi garantisco che sembrava di avere Lucio qui in studio. Adesso cosa ci... Vabbè, fai questo medley, quello che vuoi tu, prego. Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu a 16 sei, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato. E so che guarirei. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso e immenso amore e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline, praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella, non se ne va. Oh no no no no no no, innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura, un'avventura. Meravigliosa. Grazie. Anche se la chitarra era un po' scordata. Non ti preoccupare, ora, è tutto all'improvviso. Ora ci riaccordiamo. Uno ti dice motocicletta è stupenda. Grazie. E poi l'altro, uno ti chiede come interpreti una donna per amico dagli occhi di Lucio? In che senso? Cioè come? Come interpreta una donna per amico dagli occhi di Lucio? Mi ha scritto. Dagli occhi di Lucio? Come la interpreti probabilmente. Ah, allora. Ok. Ma io la interpreto... Che poi alla fine, cioè, allora, è la storia praticamente di loro, cioè di un lui e una lei, che praticamente sono amici, ma che poi insomma alla fine amici non sono, certo. Perché c'è sempre questa gelosia, no? Un po' come il film Harry, ti presento Sally. Io ogni volta che ascolto quella canzone viene in mente quel film. E... Com'è che fa quella canzone? Ce la fai? Con la chitarra non ce la fai. No, è un po' problematica. È uno di quei brani che quando siamo ad esempio in due a fare le showcase in acustico o i concerti in acustico ci chiedono e purtroppo non riusciamo a fare, ma proprio perché non rende. Infatti quella è una canzone, una delle poche che in live facciamo, anche supportati da una piccola base con dei suoni di synth, perché è molto molto piana, c'è un arrangiamento molto pesante. Cioè. Perché è un disco da multiseller, venduto un sacco, sì, disco, venduttissimo, forse mi sa che è quello che ha venduto più venduto di Battisti, sì. Per quello poi registra in Inghilterra, sì, esattamente, poi con grande produttore, esattamente, sì sì. Bene, io direi a questo punto di farlo riposare un attimino, facciamo riposare e ritorniamo al mondo tuo. Ok, ci ascoltiamo la canzone Inarrendevole, hai scelto, sì. Ci vuoi parlare qualcosa di questa canzone? Inarrendevole è una canzone d'amore dove lui non si arrende, cioè nel senso che vive una storia con una lei molto testarda e a tratti anche un po' violenta, è anche un po' succube forse di lei, perché alla fine forse la parte dell'uomo lo fa lei. Lui un po' subisce questa cosa, però non si arrende, non vuole un'altra donna, vuole lei, forse mettendo anche l'orgoglio talvolta sotto le scarpe, ma mai perdendo la dignità, che è la cosa fondamentale. Comunque il rispetto di sé non va mai soffocato, perché poi insomma, se no alla fine se non hai rispetto di te, non hai rispetto neanche degli altri e non ti puoi neanche insomma innamorare. Questo è un po' il senso della canzone. L'ascoltiamo. Quanto sei precipitosa se mi sbaglio, quando sai che poi mi chiudo per orgoglio, perché fai una tragedia, perché mai mi tiri addosso la tua sedia, non riesco ad evitare qualunque errore, io non vorrei sbagliare né farti male, offendimi a fondo. Ma io rimango qui, non mi arrenderò perché io amo solo te. Non mi arrendo neanche se non cambierai per me. Non mi arrenderò perché io amo solo te. Non mi quanto sei pericolosa se ti arrabbi, quando sai che tutti abbiamo i nostri dubbi. Perché vuoi fare una strage quando sai che la violenza non mi piace? Facciamo un po' la pace e poi l'amore. Abbassa un po' la voce e un po' la luce. Perdonami. Abbracciami. L'amore è questo qui. Non mi arrenderò perché io amo solo te. Fai sentire inarrendevole. Mi hai legato qui senza gelosia. Non posso dare a te più di quanto prendi. È impossibile perché per sempre mi innamorerò di te. Blue Time Live. Blue Time. Sono le 22 passate da due minuti con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara. Questa è Blue Radio Veneto che vi sta regalando la musica di Lucio Battisti. No, stavo scherzando. Stavo scherzando, ci mancherebbe. Anche. Abbiamo Leandro Ghetti in arte Lego che ci sta presentando questa quale favola. Questo, tra l'altro, devo farti i complimenti perché è raro ultimamente che gli artisti incidano dischi con tante tracce come te. Grazie. 11 canzoni sono tantissime. Per sì, il... Di sì, solito sì, ne fanno 6-7 ultimamente. Che poi all'inizio erano 12. Ah, hai tagliato detto, una. Ma sì, una leviamola. Magari la mettiamo nel prossimo di budget. ecco per quello. E questo era un pezzo che originariamente si chiamava Quando sei, è stata la sì. porta di lancio, la porta aperta per andare al per CET, esatto. E proprio esatto. è diventato inarrendevole per sì. motivi di cambiamento di testa. Esatto, insomma. Esatto. Che Mogol ha detto. Sì, Mogol ha detto la canzone mi piace, però il testo non è chiaro, secondo me dovresti cambiarlo. E quindi poi mi sono affidato alla mente di Maurizio Bernacchia, che l'ha presa e me l'ha rigirata completamente. Cioè, tant'è che quando sei parlava di un prete che non aveva più la fede e che quindi si innamorava di una fedele, diciamo così. È una storia che avevo visto io quasi in prima persona quando ero piccolo e mi era rimasta impressa. Però ogni volta che la facevo sentire, la musica piaceva, la melodia pure, e il testo lo dovevo spiegare. Non era chiaro. Quindi no, Mogol, una delle cose fondamentali che insegna la CET è che il messaggio deve essere diretto e molto chiaro, anche se comunque chiaramente non deve essere né banale, che poi è secondo me è ancora più difficile. Cioè è più facile scrivere un testo che si può interpretare piuttosto che un testo diretto non banale. Cioè non è facile, e io questa cosa l'ho capita lì. Io prima comunque scrivevo in maniera completamente diversa. Dovremmo chiedere a Mogol il famoso testo che lui ha scritto per la famosa suite di Battisti, quello del supermarket, se era molto chiaro. Infatti. Quello infatti. È complicatissimo. Come? È complicatissimo. Quello non era per niente chiaro. Tra l'altro quella la facciamo quando siamo in duo. Quello è complicatissimo come prezzo. Sì, molto. Cioè è una suite vera e propria, una suite quasi prog in alcuni momenti. Decisamente. Sì, che poi Battisti lì fa anche un tempo girato. Esattamente. Cioè fa un tempo con la chitarra e col piede è praticamente non è a tempo, cioè è a tempo ma è girato. Rispetto a infatti io una volta ho provato e mi sono intrecciato, non è proprio fattibile. Ok, benissimo. Allora abbiamo sentito questo pezzo. Che come mai hai fatto il pezzo d'apertura del disco? Perché secondo me è il brano più fresco. Ah, ho capito. Quindi ho detto apri con un brano deciso che in fresco, effetti pop, si è sentito è forse il brano più pop del disco. Sì, si è sentito subito la tua impronta pop. Battistiana. Sì, sì, sì, è anche il brano, è il brano più battistiano. E, oltre ad assomigliargli fisicamente, anche la voce non è male, specie in questa canzone, ci hanno scritto. Grazie, grazie. Fantastico. Senti, Leandro Lego, sì. Per quello che preferisci ti chiamo. È uguale. È uguale. Quando la famiglia te lo permette, cosa ascolti a casa di musica? Ora solo canzoni per bambini in questo momento. Sì? Sì, sì. Beh, vabbè, insomma, sono... perché la famiglia già... Sì. Però, sì. Però cosa ti piace a te proprio? Allora, ora come ora... Ma sai che non... E se vai in un'isola, famosa domanda, se vai in un'isola deserta, tre dischi che ti devi portare? Tre dischi. Uno di Battisti, sicuramente... Però, quale di Battisti? Visto che dobbiamo emozioni, scegliere. Emozioni. Mi porterei. Poi mi porterei un disco dei Queen. Qui in prima maniera, seconda maniera, primo periodo, secondo periodo? O l'ultimo periodo? Greatest Hits. Quindi hai tagliato la testa al toro. Sì, sì. e poi mi porterei... Non è facile perché... io ho sempre ascoltato un po' di tutto, ma io porterei i Beatles. Che i Beatles sono un po' di tutto, sì. Hanno creato tutto. Però, lo so, anche Björk mi porterei. Vedi, è bello, interessante questa. Parti dai Beatles, che sono sperimentali quando vogliamo. Tutti con la B, Björk, Beatles, Battisti, Battiato anche. Anche un altro sperimentale. Bersani. Anche lui. Sì, sì, no, ma ci sono artisti veramente, veramente fantastici. Ora però, non lo so, è un periodo che sono un po' disincantato da questo punto di vista. Pensi alla tua musica. Sì, sì. Pensi meglio al tuo progetto che deve andare avanti, deve desfociare, deve farsi sentire. Perché è importante questo. Proviamoci, ci stiamo provando adesso. Sì. E poi ci saranno altre occasioni, chiaramente. Però questa è un'occasione importante. E come? E invece il tuo rapporto con i tuoi fans com'è? I miei fans è bello. Fai... Ci sono situazioni molto molto belle, anche un po' commoventi. Ci sono state serate magari in cui vedo in prima fila una signora che si mette a piangere dalla commozione. Oppure, quando fai la canzone tua o quando no, fai quando faccio Battisti. Canzoni mie per il momento sono un po' fermo alla promozione radiofonica e al disco, insomma. Sto cercando dei canali alternativi alla Tribute Band per fare aperture, magari insomma, personaggi un po' più conosciuti che mi permettano di avere comunque un po' di pubblico davanti, perché quando uno fa brani suoi e si propone magari a un locale piuttosto che a una festa, hai sempre davanti 20 persone. Quindi, perché sanno che fai roba, cioè nel senso tua. Fai delle canzoni tue. Se fai cover no, quindi è quella la grande differenza. Però se uno riuscisse ad aprire gruppi, magari non ti dico la Pausini, chiaramente perché è impossibile, però band che hanno comunque un suo giro, un suo pubblico, anche fare mezz'ora sarebbe l'ideale. E quindi mi sto muovendo per cercare situazioni di questo tipo qua. E i prossimi concerti quando? I prossimi concerti ora stiamo già fissando agosto. Ah, però. Sì, davvero, con la Tribute. Sì, sì, come sì, te sì. Invece? Come te per ora, come me, come te, come me. No, come Lego per ora non ne hai in previsione. No, per ora no. Però, insomma, devi promuovere il disco, quindi infatti magari... prima ci sarà la promozione, io spero che dalla promozione radiofonica venga fuori qualcosa, anche se poi uno prova anche su internet. Parliamo un momento, non so se Agostino sia d'accordo, penso di sì, della bellezza del disegno, chi ha inventato questi disegni qua? Allora, l'idea è stata mia, perché stavo pensando, ero sul divano, stavo pensando alla copertina, accendo la TV e su Sky davano Alice nel Paese delle Meraviglie. Capito. Vedo Johnny Depp vestito così, ho ricollegato alla Favre, che poi a me piace quello stile lì, proprio come alla Tim Burton, no? Sì. Quindi non la favola da bambini, ma la favola da adulti. Esatto, infatti. E quindi questa cosa si sposava benissimo con la storia della canzone, cioè che è una favola però raccontata in chiave da adulti. E qui ho detto, bene, chiamo il disco quale favola, cosa che a me piace tantissimo, chiamare il disco con una canzone. E poi niente, mi sono affidato a un amico che si chiama Francesco Scianci, che fa il grafico, e abbiamo lavorato insieme. Quindi poi io ho noleggiato il costume, sono andato in studio fotografico, ho fatto le foto, lui ha inserito la foto sul computer, ci ha creato intorno tutta l'atmosfera fiabesca, ed è venuta fuori questa grafica. A proposito di amici, chi ha partecipato al disco, che ha suonato assieme con te? Allora, ha suonato Ciro Pisanelli, che è stato anche il produttore con me, ha arrangiato in parte anche quale favola, ha messo i suoni di synth, le varie programmazioni. Poi ha suonato Gabriele Savarese alla flamenca, alla chitarra flamenca. Sì, però ha suonato anche gli archi, perché lui suona anche il violino. Il violino. Sia elettrico che acustico. E poi Marco Campagna alla batteria, che era il nostro ex batterista. Mm-hmm. E Luca Silvestri al basso, che è l'attuale bassista di Innocente Evasioni. E Niccolò Chimenti, che è il chitarrista di Innocente Evasioni, che ha preso parte anche lui all'arrangiamento di un paio di brani, quale favola e Incredulo. Poi ha suonato il sax Boschetto, ha chiamato Boschetto. non mi ricordo il nome. Si chiama Alessandro Bosco. Ok, Alessandro Bosco, perfetto. No, perché cioè lui mi è stato presentato da Ciro Pisanelli, quindi non mi ricordavo ora in questo momento il suo nome di battesimo. E poi basta. Te sei ricordati tutti praticamente. Mi sembra di sì. Vabbè, non sono pochi. No. Assolutamente. È una bella produzione. Sì. Infatti poi ho finito i soldi. E basta. Hai in progetto un altro disco quando recuperi un po' di soldi? Magari sì. Non ce l'hai già qualcosa in mente? Sì. Cioè io in teoria avrei, cioè se avessi modo avrei già fatto altri 3 dischi almeno. Addirittura. Sì. È molto materiale. Canzoni, sono tanto materiale, però chiaramente i tempi sono quelli che sono. Anche l'etichetta mia, la Smilax, dà quello che può dare. Mm-hmm. E quindi, cioè, insomma, uno... No, non tutto, però una parte la devi mettere te, perché sennò ormai nessuno più investe su di te, sempre per il solito motivo che i dischi non si vendono. E quindi insomma uno cerca di fare il meglio che può. Sicuramente vincessi al gratta e vinci, farei altri 3 dischi subito. Ricordati che di noi allora se... Certo, magari vincessi. Cosa ci fai ascoltare adesso? Allora, io vi farei ascoltare l'ultimo brano del disco, che si intitola La vita vera, e il messaggio è molto chiaro, cioè la vita vera la decidiamo noi, cioè l'importante è che ci sia un'intenzione forte di quello che uno vuole fare. Poi chiaramente ci va di mezzo la fortuna, ci vanno di mezzo le situazioni, però l'importante è avere una convinzione. Ascoltiamo. Vivere non servono vestiti costosissimi, è meglio se ti abbracciano due amici fidatissimi. Non servono gli oroscopi, ma gesti impercettibili, consolazioni semplici di piccole abitudini. perché la vita vera la decidiamo noi. Il sogno poi si avvera se vuoi. Fai quel che vuoi della tua vita, che puoi. Le cose ti circondano, ma sono spesso inutili. Al cuore basterebbero parole più amorevoli. Per vivere ci servono persone più sensibili, che ascoltino e capiscano cos'è uno sguardo complice. Perché la vita vera la decidiamo noi. Il sogno poi si avvera se vuoi. Perché la vita vira e ti porta dove vuoi. E l'anima respira con noi. Fai quel che vuoi della tua vita, che puoi. Perché la vita vera decidiamo noi, il sogno poi si avvera se vuoi. Finché la vita vera la decidiamo noi, sarà una vita vera, lo sai. Fai quel che puoi per la tua vita, per noi. Un ringraziamento particolare a Daniela e Aurora, artefici di questo incantesimo, di un incantesimo. Quale sì. Favola? Allora, vabbè, Daniela è mia moglie, sì, Aurora è la mia prima figlia e poi, secondo me, anche Alice, perché alla fine la copertina sembra Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi in parte è dedicata anche a lei. Anche se all'epoca non era ancora arrivata, però è arrivata poco dopo. Certo. Chi volesse contattarti? Vuoi fare un commento sulla canzone? Sì, volevo solo dire una cosa. Questo è l'ultimo pezzo, il pezzo che chiude l'album. Sì. E a me è sembrato che tu giustamente hai trovato una strofa molto incisiva. Sì. E con un sacco di risvolti melodici, con sì. un sacco di addentellati, con un sacco di tracce, con un sacco di momenti musicali. Perché hai deciso questo pezzo pesante, nel senso positivo del termine, importante, questa ricerca delle diverse strofe, dei diversi risvolti musicali? Ma dici, cioè, perché l'ho messa come ultima? Esatto, e perché hai dato questa importanza? Allora, l'ho messa come ultima per... perché comunque la... E io l'ho trovato quasi sanremese questo pezzo. Sì, è una ballata. È una ballad. Sì, sì, è una ballad. Vabbè, ora, insomma, chiaramente si è sentito poco con la chitarra. Beh, chiaramente. Però sì, è una ballad. Fra l'altro è la più vecchia dell'insieme degli altri. Sì, che ho scritto. Tra l'altro questa l'ho scritta un bel po' di anni fa. Però poi ho detto, bella, no, l'ho ripresa. C'erano delle cose, un'armonia, soprattutto su, cioè, su la strofa, sul ponte, cioè io, il discorso che di mi piaceva, una strofa incisiva che lasciasse traccia, che sì. la gente quando ascolta capisce che questa è un pezzo importante. Sì, sì. Allora, io l'ho messa in fondo perché quale favola è il titolo dell'album, ho detto la vita vera la devo mettere alla Perfetto. Fine. Chiaro. Questo è stato il ragionamento. È forse la canzone più seria, come dici sì, te. Volevo arrivare come a questo. Dici te, sì, sì. L'ho messa in fondo perché l'album si alterna molto fra ironia e temi un po' qua più seri. Qua non c'è ironia, assolutamente. No, qui non c'è assolutamente ironia. È forse perché proprio per questo, ma io molte cose le faccio di istinto. Cioè mi sentivo che questo pezzo andava in fondo. Forse anche perché forse è il meno radiofonico esatto, rispetto anche ad altri. Per quello ma un po' scombussolato, e perché quindi, è il meno radiofonico. Se una persona ha la pazienza, cioè alla pazienza, ha la voglia di ascoltare il disco, è bene che questa canzone l'ascolti. Beh, solo chi se la merita, diciamo così. Ah, ho capito. Okay. Il disco lo deve sentire tutto fino alla fine. E questo qua dice: ma gli altri pezzi fanno parte del disco o sono un po' legati? Beh, è una bella domanda. Forse si stacca un po' dagli altri. Si stacca. Anche, io ho avuto questa sensazione. Anche a livello di te, cioè, soprattutto a livello di testo. Esattamente. Soprattutto a livello di testo. Forse l'inizio di un nuovo percorso? No, assolutamente no. Assolutamente no. Io continuerò a fare insomma, canzoni ironiche. Ascoltiamo 30 secondi di questa. L'anima respira con noi. Fai quel che vuoi della tua vita. Che puoi. Inutile dirti che questo è un pezzo che mi ha colpito tantissimo. Grazie. Io poi amo le ballate, quindi insomma. Poi qui ci sono gli Archiveri. Sono stati registrati gli Archiveri da Gabriele Savarese. E, insomma, c'è anche una parte insomma strumentale importante che dà ancora di più questo senso di serietà alla canzone. Esattamente. Abbiamo una decina di minuti, due canzoni, una dal disco e una dalla cover. Allora, vuoi la mostarda? Sì, ma non per mangiare. La mostarda, c'è un pezzo che si chiama La Mostarda. La Mostarda. L'ascoltiamo? Volentieri. E poi ne parliamo. Ok. Ok. Tu mi hai detto sono come chi multerebbe pure i vigili, mi hai gridato vattene da qui con lo sguardo che hanno i pugili. Sei andata oltre i limiti senza mai cercarti un alibi, ma sto al gioco se mi provochi perché sono un po' testardo. Tu mi hai criticato gli abiti, ma ho pagato tutti i debiti. Mi hai fregato molto bene, sì, neanche fossi fra i più stupidi. Non accetto insulti facili, dolorosi e poco leciti. Io rispetto la tua libertà, critico ma non offendo. Se non sai, non puoi giudicare. Sono dolce solo con chi ha la mia stessa sensibilità. Sono forte solo per metà, come la mostarda. Sono buono ma non ho pietà con chi gioca con la dignità. Con la scusa della vanità, come una mostarda. Rido e piango come i comici, preferendo quelli cinici. Ora sono inaccettabili i commenti che fai su di noi. Credimi, stai dando i numeri, i pensieri poco logici. Scherzo pure con la verità, ma non sono mai bugiardo. Sono dolce solo con chi ha la mia stessa sensibilità. Sono forte solo per metà, come la mostarda. Sono buono ma non ho pietà con chi gioca con la dignità. Una scusa della vanità, come una mostarda. Se non sai, se non sai, se non sai, non puoi giudicare. all'amante come una bastarda. Come la mostarda. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora, 22 e 26, Maurizio, due considerazioni su questa canzone. Come la mostarda. L'ironia totale. Prima quel pezzo precedente era molto pesante nel senso positivo del termine, ricercato. Sì. Guarda, giochi, sì, è un divertissement, assolutamente. Sì, brano molto divertente anche da suonare. Cosa ti ha spinto a scrivere un pezzo così? Allora, questo è è stato uno di quei brani che Maurizio ha ripreso il testo. Prima si chiamava la mansarda. Ah, la mansarda, sono stati la mostarda. Era cambiata la mostarda. E, il concetto di questa canzone non è facile perché, innanzitutto, secondo me, c'è anche un doppio risvolto. Mm. Il primo risvolto è quello di andare contro a chi giudica senza conoscere. Questa è la prima cosa. La seconda è la storia che vuole raccontare la canzone. Cioè che sono due persone, però lui dice, cioè, quindi un uomo e una donna, lui dice io sono buono, cioè sono dolce, però sono dolce solo per metà. L'altra metà è forte, cioè come la mostarda, quindi te non ti stai comportando bene, quindi stai attenta perché io c'ho la pazienza fino a un certo punto. Poi dopo mi arrabbio, quindi però anche questo viene raccontato anche forse in maniera un po' ironica anche cacofonica, però insomma abbastanza forte come concetto. Questo uso è batteria elettronica e loop, per come mai? Allora, il loop mi è venuto, insomma, spippolando un po', ok, e poi comunque io amo la musica elettronica, quindi avete sentito, sì, certo. Però diciamo questo è un pezzo un po' più rock rispetto agli altri, quindi ho usato delle chitarre distorte molto forti sul ritornello e in più ho cercato di accentuare il tutto con dei cori da stadio, non so se avete sentito, sì, in fondo sono quegli così e niente, ho cercato di fare davvero un pezzo che spacca, insomma. Ecco. La mostarda. Sì, la mostarda, esatto, spacca. Esatto, la mostarda. Poi è carino associare, come dire, una storia a un cibo, no? A un alimento. Siamo arrivati alla fine, Leandro, sì. Però prima di salutarci i tuoi dati, se qualcuno volesse contattarti, il tuo sito. Ok, allora il mio sito è www.lego.it, mi trovate anche su Facebook, poi mi trovate anche come disco, ok, come disco in vendita, sia su iTunes, lo potete scaricare, lo potete ordinare sul sito della Self, che è il distributore, e anche sul sito della Smilax, che è l'etichetta che mi rappresenta. Come? Ricordi i siti? Sì, www.self.it, www.smilaxpublishing.com. Uh-huh. Oppure i tuoi concerti. Oppure i miei futuri concerti, spero che ce ne siano tanti, perché per ora ce ne sono pochi, almeno come Lego, però comunque io continuo a girare con la Tribute di Battisti e per ora vado avanti così. Certo, allora noi ti ringraziamo. Grazie a voi, è stata davvero una bellissima esperienza. Una bella chiacchierata con te. Sì. Io te lo rinnovo l'invito. Magari. Ce l'hai promesso. Ora appena torno a casa ne parlo subito con gli altri, vediamo, ecco, di organizzare una serata insieme. Facciamo una bella serata dedicata a Lucio Battisti per omaggiarlo delle sue tante canzoni, dei suoi momenti straordinari che ci ha regalato con le sue canzoni. Ok. Allora, quale favola si conclude con... non lo so, io stavo pensando di fare il primo passo, se mi ricordo il testo, perché io ho sempre la paura di scordarmi i testi. E il primo passo, che è vuoi il libretto? Un pezzo, vuoi il libretto? Magari, sì, che la felicità è un solo un passo, sì, perché abbiamo tutto un asso da giocare. Esatto, esatto. È un po' reggae, fai, per sì, reggae. Sì, sì, sì. E infatti vi ho detto, ma sì, ma facciamo anche il reggae. Dopo il tango facciamo anche il reggae. Ecco, e qua. Quindi, Renato ecco qua. Ci ha portato il libretto. Perfetto, benissimo. E niente, strofa reggae, ritornello rock, anche questo bello pompato. Pieno. Bene, Maurizio, grazie ancora anche a te. Grazie a te, Agostino. Ci vediamo lunedì. Esattamente. Non lunedì. Con te proprio, insomma, ci sarà. Beh, Stefano. Io ci sarò nelle dietro, ecco, girerò. E l'appuntamento invece di giovedì prossimo andiamo in Liguria con Zazza, che speriamo ci venga veramente. Dopo un po' di tempo ci venga a trovare e presenterà il suo disco vecchio, ma tra virgolette si intitola così, in attesa che esca il disco nuovo di quest'anno. Ma intanto l'appuntamento è sempre per le ore 21 di giovedì prossimo. E poi fra 15 giorni ci sarà una grande sorpresa, musical di nuovo qui con Casanova, ma ne parleremo quando sarà il momento. E poi la posso dare, già visto che parlavamo prima, sia il sottoscritto, cioè io, e Alberto Prisco, direttore artistico, che salutiamo, saremo a Sanremo quest'anno. Quindi è una, e vai. Quindi è una grande, grandissima cosa, è una grande soddisfazione da parte mia e da parte di Alberto, ovviamente. Allora, ci salutiamo con... Il primo passo. Grazie, grazie ancora Leandro e in bocca al lupo per la tua musica. Grazie Crepi. Ti aspettiamo con Innocenti Voci. Ok. Prego. Hai comprato un telefono, ma tu già ne avevi tre. Puoi chiamarla la felicità, tanto lei non ti risponderà. Tante cose a che ti servono, se gli amici ti abbandonano. Esci dopo cena, cerca intorno a te la voglia di cambiare. Butta ora giù la diga, che ti ostini a pensare che sia la sfiga. È soltanto molto comodo non far più lo stupido. La felicità è solo un passo, abbiamo tutti un asso da giocare, sai. Tocca fare a te il primo passo, è meglio farlo adesso che pensare sempre prima o poi. La tua vita al semaforo ed è scattato il giallo, spingi l'acceleratore, dai, non pensarci troppo, fallo. Non sprecare i sentimenti, perché dopo te ne penti. Esci al sole domattina, cerca dentro te la voglia di rischiare. Salta ora giù dal ponte, cambia il volo l'orizzonte. La felicità è solo un passo, abbiamo tutti un asso da giocare, sai. Tocca fare a te il primo passo, è meglio farlo adesso che pensare sempre prima o poi. Di confini non ce n'è, solo se tu credi in te. Se tu credi in te. La felicità è solo un passo, abbiamo tutti un asso da giocare, sai. Tocca fare a te il primo passo, è meglio farlo adesso che pensare sempre prima o poi. Di confini non ce n'è, solo se tu credi in te. Se tu credi in te. Grazie a tutti. Grazie.